Capitolo 4. La vecchissima Morla. Cairone, il vecchio centauro nero, udendo perdersi in lontananza il rimbombo degli zoccoli del cavallino di Atreio, si lasciò ricadere sul suo giaciglio di morbide pelli. Quello sforzo aveva esaurito le sue ultime energie. Le donne, che il giorno dopo lo ritrovarono nella tenda di Atreio, temettero per la sua vita. Quando ritornarono i cacciatori, le cose non erano ancora migliorate di molto, ma il vecchio centauro fu perlomeno in grado di spiegare loro perché Atreio se ne fosse andato in quel modo e neppure sarebbero ritornato tanto presto. Poiché tutti volevano molto bene al ragazzo, da quel momento si fecero molto seri e cominciarono a pensare a lui con ansia e timore. Al tempo stesso, però, erano anche molto fieri che l'infante imperatrice avesse dato proprio ad Atreio l'incarico di partire alla grande ricerca, anche se nessuno, per la verità, riusciva a spiegarsi bene la cosa. Il vecchio Cairone, dal canto suo, non ritornò mai più alla Torre d'Avorio, però non morì e neppure restò presso i Pelleverde. La sua sorte doveva condurlo per una strada del tutto diversa, assolutamente inattesa. Ma questa è un'altra storia e si dovrà raccontare un'altra volta. Atreio cavalcò quella notte stessa fino ai piedi delle montagne d'argento. Era già quasi mattina quando si fermò per un breve riposo. Artax pascolò un po', brucando intorno, e si abbeverò alle fresche acque di un limpido ruscello di montagna. Atreio si avvolse nel suo mantello rosso e dormì un paio d'ore. Ma quando il sole si levò, i due erano già di nuovo in viaggio. Il primo giorno traversarono le montagne d'argento. Qui conoscevano ogni strada e ogni sentiero e avanzarono rapidamente. Quando gli venne fame, il ragazzo mangiò un pezzetto di carne di bufalo affumicata e due piccoli pani di semi d'erba che portava in una sacca appesa alla sella. Erano le provviste che aveva con sé per la caccia. «Ma certo!» esclamò Bastiano. Di tanto in tanto bisogna pur mangiare qualcosa. Tolse dalla cartella il pacchetto della merenda, lo scartocciò, divise accuratamente il panino in due parti, ne avvolse una di nuovo nella carta e la rimise via. L'altra la mangiò. Giù in cortile la ricreazione era finita. Bastiano pensò un momento quale lezione sarebbe cominciata ora. Ah sì, giusto, geografia, con la signora Magrini. Con lei bisognava saper recitare a memoria nomi di fiumi e affluenti, città e numero di abitanti, ricchezze del sottosuolo e industrie. Bastiano fece un'alzatina di spalle e riprese a leggere. All'ora del tramonto i due si erano già lasciati alle spalle le montagne d'argento e si fermarono nuovamente per la notte. Nel sonno Atreio sognò i bufali di porpora. Li vedeva in lontananza correre attraverso il mare erboso e cercava di avvicinarsi a loro con il suo cavallino, ma era inutile. Per quanto lui spronasse il suo bravo Artax, i bufali restavano sempre alla stessa distanza. Il secondo giorno attraversarono la terra degli alberi cantanti. Ciascuno di essi aveva una forma diversa, foglie differenti e anche una diversa scorza, ma la maggior parte la ragione per cui il paese portava quel nome era che si poteva udire la crescita della vegetazione come una musica leggera che risuonava da lontano e da vicino, raccogliendosi in un tutto tanto possente che in quanto a bellezza non la si poteva confrontare con nessun'altra cosa in tutta fantasia. A girarsi per quella regione era peraltro considerato non del tutto scevro di pericoli, perché più di un viandante vi era già rimasto prigioniero, come bloccato da un incantesimo, dimentico di ogni altra cosa. Anche Atreio avvertì il magico incanto di quei suoni meravigliosi, ma non si lasciò affascinare al punto di fermarsi. Nella notte che seguì sognò nuovamente i bufali di porpora. Questa volta però egli era a piedi ed essi gli passavano davanti in un immenso branco, ma erano fuori del raggio del suo arco e quando volle avvicinarsi si accorse di non poter muovere i piedi, quasi fossero inchiodati al terreno. Dallo sforzo che fece per staccarli dal suolo si svegliò. Non era ancora l'alba, ma subito si rimise in viaggio. Il terzo giorno vide le torri di vetro di Erebo, nelle quali gli abitanti del luogo catturavano e raccoglievano la luce delle stelle, e con essa fabbricavano oggetti meravigliosamente decorati, che peraltro, all'infuori di loro stessi, nessuno in tutta Fantasia sapeva che cosa potessero servire. Incontrò persino alcuni di questi abitanti, minuscole figure, che parevano anch'esse fatte di vetro. Tutti lo rifocillarono con estrema gentilezza, offrendogli cibi e bevande, ma alle sue domande su chi potesse eventualmente sapere qualcosa circa la malattia dell'infanta imperatrice, sprofondavano in un triste e sconsolato silenzio. Nella notte che seguì, Atreyu tornò a sognare che il grande branco di bufali di porpora gli passava davanti. Vide chiaramente che uno degli animali, un toro particolarmente grosso e poderoso, si staccava dal gruppo e si dirigeva verso di lui, lentamente, senza ombra di paura o di collera. Come tutti gli autentici cacciatori, Atreyu aveva il dono di individuare immediatamente in ogni animale il punto vulnerabile, dove bisognava colpire per ucciderlo. Anzi, gli sembrava che il toro si mettesse addirittura nella posizione giusta per offrirsi come bersaglio. Atreyu inserì rapido la freccia e tese l'arco con tutte le sue forze, ma non riuscì a scoccare la freccia. Pareva che le dita gli si fossero legate intorno alla corda dell'arco. E pressa poco lo stesso gli accadde in tutti i sogni che fece nelle notti seguenti. Arrivava sempre più vicino al bufalo di porpora, e si trattava proprio dell'animale che avrebbe voluto uccidere durante la sua caccia, riconoscibile dalla macchia bianca sulla fronte, ma per una ragione o per l'altra non riusciva mai a far partire la freccia mortale. Durante il giorno continuava a cavalcare, senza sapere dove andare e senza neppure incontrare qualcuno che potesse eventualmente dargli qualche consiglio o indicazione. L'amuleto d'oro che portava al collo era guardato con grande rispetto da tutti coloro che incontrava, ma alle sue domande nessuno sapeva rispondere. Un giorno vide in lontananza le strade fiammeggianti della città di Brooks, dove abitavano creature dal corpo di fuoco, ma preferì non inoltrarvisi. Attraversò invece il grande altopiano dei sassafrani, che nascono vecchissimi e muoiono quando sono diventati poppanti. Arrivò al tempio di Momat, nella foresta vergine, dove un'enorme colonna di pietra lunare si librava alta nell'aria, e parlò con i monaci che vivevano nel tempio. Ma anche di lì dovette ripartire senza aver avuto alcuna indicazione. Era ormai in cammino da quasi una settimana, vagando di qua e di là senza una direzione precisa, quando al settimo giorno e nella notte che seguì accaddero due fatti completamente distinti fra loro, che mutarono totalmente la sua situazione interiore e anche esteriore. Il racconto che il vecchio Caerone gli aveva fatto circa le terribili cose che si andavano registrando in tutte le più lontane contrade di Fantasia lo aveva sì impressionato, ma per lui, fino a quel momento, era rimasto in fondo soltanto un racconto. Ma al settimo giorno si trovò ad affrontare quella realtà con i suoi stessi occhi. Era quasi mezzogiorno quando attraversò di buon trotto un bosco fitto e oscuro, fatto di alberi giganteschi e particolarmente nodosi. Si trattava di quel famoso bosco frusciante in cui qualche tempo prima si erano incontrati i quattro messaggeri. In quella regione, questo Atreyu lo sapeva, vivevano i trolli di corteccia. Erano costoro, come gli era stato raccontato, tipi e tipe di enormi proporzioni, che avevano essi stessi l'aspetto di tronchi nodosi. Quando restavano immobili, come del resto era loro abitudine, si poteva benissimo scambiarli, appunto, per degli alberi e passarvi davanti senza avvedersi di nulla. Soltanto quando si muovevano si vedeva che avevano braccia in forma di rami e gambe come contorte radici. Possedevano una forza straordinaria, ma non erano pericolosi. Tutt'al più si divertivano ogni tanto a giocare tiri birboni ai viandanti sperduti. Atreyu aveva giusto appunto scoperto nel cuore del bosco una radura con un prato nel mezzo, del quale serpeggiava tortuoso un ruscelletto. ed era sceso di sella per lasciare che Artax brocasse e si abbeverasse un poco, quando all'improvviso udì dietro di sé, nel bosco, un grande fracasso, un tremendo crepitio e cigolio di legno. Si voltò di scatto. Dal fitto del bosco arrivavano dei trolli di corteccia, la cui vista bastava a fare correre un brivido di spavento fino in fondo alla schiena. Al primo mancavano le gambe e l'addome, cosicché dovevano camminare sulle mani. Il secondo aveva un buco enorme nel petto, tanto grande che si poteva vedere dall'altra parte. Il terzo avanzava saltellando sull'unica gamba, la destra, perché gli mancava completamente la parte sinistra, come se fosse stato tagliato verticalmente a metà, da cima a fondo. Quando videro l'amuleto sul petto di Atreyu, i tre si scambiarono occhiate d'intesa e vennero avanti lentamente. «Non spaventarti», disse quello che camminava sulle mani, e la sua voce suonò come il cigolio di un albero che si piega. La nostra vista non è certo uno spettacolo attraente, ma in questa parte del bosco frusciante non c'è più nessuno all'infuori di noi in grado di avvertirti. Per questo siamo venuti. Avvertirmi? Domandò Atreyu. E di che cosa? Abbiamo udito parlare di te, gemette quello con il petto bucato, e ci hanno raccontato la ragione del tuo viaggio. Non devi assolutamente proseguire per questa strada, altrimenti sei perduto. Altrimenti ti succede quel che è successo a noi, sospirò quello tagliato a metà. Guarda un po', vorresti fare questa stessa fine? Che cosa vi è successo? Si informò Atreyu. La distruzione si va estendendo, si lamentò il primo. Cresce, cresce e dilaga sempre più, se mai si potesse dire che il nulla cresce. Tutti gli altri sono fuggiti per tempo dal bosco frusciante, ma noi non volevamo abbandonare la nostra terra. E così ci ha colti nel sonno e ha fatto di noi ciò che ora tu hai davanti agli occhi. Fa molto male? Domandò Atreyu. No, rispose il secondo dei troll, quello con il buco nel petto. Non si sente niente. È soltanto che ti manca un pezzo. E una volta che si è colpiti, ogni giorno ti manca qualcosa di più. Presto non esisteremo più del tutto. Qual è il punto del bosco dove è cominciato? Volle sapere Atreyu. Lo vuoi vedere? Il terzo dei troll, quello che era solo una metà, guardò i suoi compagni di sventura con aria interrogativa. Quando quelli assentirono, proseguì. Ti porteremo fino a un punto da cui potrai vedere, ma da parte tua devi promettere di non andare un passo più in là, altrimenti ne sarai attratto irresistibilmente. Va bene, lo prometto. I tre si voltarono e si diressero verso il margine del bosco. Atreyu prese Artax per la briglia e li seguì. Per un po' camminarono a destra e a manca, in mezzo a quegli alberi giganteschi. Poi, davanti ad un tronco particolarmente robusto, si arrestarono. Era enorme, cinque omaccioni grandi e grossi non sarebbero bastati per abbracciarlo. Arrampicati più in alto che puoi, suggerì il trollo senza gambe, e guarda dalla parte da cui sorge il sole. Là lo vedrai, o meglio, non lo vedrai. Atreyu si accinse a scalare il tronco, appigliandosi alle sue gibbosità. Arrivò ai rami inferiori, si spinse più su, fino ad un ramo più alto, poi con un'altra spinta si portò ancora più su, sul ramo successivo, e così sempre più avanti, fino a che non vide più nulla di quello che stava sotto di lui. Continuò ad arrampicarsi. Il tronco si faceva mano a mano sempre più sottile e i rami laterali più numerosi, di modo che salire gli riusciva sempre più facile. Quando alla fine si trovò a sedere sulla cima svettante, volse lo sguardo dalla parte da cui saliva il sole e lo vide. Le cime degli altri alberi, quelli vicinissimi, erano verdi di foglie, ma il fogliame degli alberi un poco più avanti pareva aver perduto ogni colore, era diventato grigio. E ancora un poco più oltre, il fogliame pareva stranamente trasparente, come avvolto nella nebbia, o per meglio dire, pareva farsi sempre più irreale. E ancora più in là non c'era più nulla, assolutamente nulla. Non una zona di bosco spoglia di verde, non oscurità né chiarore, era piuttosto qualcosa che risultava insopportabile alla vista e dava a chi vi fissava lo sguardo l'impressione di essere cieco. poiché non c'è occhio che possa sopportare di fissarsi nel nulla assoluto. Atreio si coprì il volto con le mani e per poco non cadeva dal suo ramo. Vi si aggrappò con forza e poi ridiscese quanto più in fretta poté. Aveva visto abbastanza. Solo in quel momento comprendeva tutto l'orrore del male che andava dilagando in fantasia. Quando fu a terra, ai piedi dell'albero gigantesco, i tre trolli erano scomparsi. Atreio montò in groppa al suo cavallino e a buon galoppo fuggì in direzione opposta a quella da cui saliva, lento, minaccioso, inesorabile, quel pauroso nulla. Solo quando fu di nuovo notte e il bosco frusciante era ormai lontanissimo, Atreio si arrestò per riposare. E fu in quella notte che lo aspettava il secondo evento che doveva dare una nuova direzione alla sua grande ricerca. Sognò, cioè, e ancora più chiaramente di quanto avesse mai fatto fino allora, il grande bufalo di porpora che avrebbe voluto uccidere durante la sua caccia. Questa volta gli stava davanti senza arco né freccia. Si sentiva piccolo piccolo, e la testa dell'animale lo sovrastava colmando tutto il cielo. Allora udì il bufalo che gli parlava. Non poteva afferrare ogni parola, ma ciò che il bufalo disse era pressappoco questo. «Se tu mi avessi ucciso, ora saresti un cacciatore. Ma tu hai rinunciato, così io ora ti posso aiutare, Atreio. Ascolta. C'è in fantasia una creatura vecchissima, la più vecchia di tutte quelle che vi abitano. Lontano, lontano di qui, nel nord del regno, si trovano le paludi della tristezza. Nel mezzo di queste paludi si alza la montagna di Corno. Là abita la vecchissima Morla. Vai a cercare la vecchissima Morla». A quelle parole Atreio si svegliò. Il campanile batté le 12. Ora i compagni di Bastiano scendevano in palestra per l'ultima ora di lezione, che era ginnastica. Forse oggi avrebbero giocato a palla prigioniera, un gioco nel quale Bastiano era di solito particolarmente maldestro, ragione per cui nessuna delle due squadre lo voleva dalla propria parte. Talvolta, però, invece che col pallone, giocavano con una palla più piccola, dura come un sasso, che faceva un male tremendo quando arrivava in testa, e in testa Bastiano se la prendeva spesso, e in pieno anche, perché lui offriva un facile bersaglio. Forse oggi ci sarebbero stati anche gli esercizi con la fune, cosa che Bastiano detestava con tutte le sue forze. Quando gli altri erano già in cima, lui di solito penzolava ancora con la testa paonazza all'estremità inferiore della fune, come un sacco di patate, e non riusciva a sollevarsi di mezzo metro, con sommo divertimento di tutta la classe, che chiocciava dalle risa, mentre il maestro di ginnastica, signor Massa, non gli risparmiava battute sarcastiche. Bastiano avrebbe dato chissà che cosa per poter essere come Atreio. Allora sì che gliel'avrebbe fatta vedere a tutti quanti, sospirò profondamente. Atreio galoppava verso nord, sempre verso nord. Concedeva a se stesso e al suo cavallo soltanto le pause strettamente necessarie per dormire e mangiare. Cavalcava di giorno e di notte, sotto il sole cocente e sotto la pioggia, fra tempeste e temporali. Non si accorgeva più di nulla e non domandava più nulla a nessuno. Quanto più si spingeva verso nord, tanto più si faceva buio. Una luce crepuscolare, di un grigiore di piombo, colmava sempre uguale le ore del giorno. La notte in cielo baluginava l'aurora boreale. Un mattino, nell'opaca penombra in cui pareva che il tempo si fosse fermato, dall'alto di una collina egli vide finalmente le paludi della tristezza. Sopra vi navigavano coltri di nebbia, qua e là si levavano boschetti di alberi i cui tronchi si diramavano verso il basso, in molte gambe contorte, 4 o 5 e anche più, cosicché parevano dei grossi granchi posati sull'acqua nera. Dal fogliame brunito pendevano ovunque radici aeree che somigliavano a immobili tentacoli. Era quasi impossibile capire in quali punti il terreno era solido fra le pozze d'acqua e dove invece non era che una superficie ricoperta da una coltre di piante acquatiche. Artax sbuffò leggermente di paura. «Dobbiamo andare lì dentro, padrone?» «Sì», rispose Atreio, Dobbiamo trovare la montagna di corno, che è al centro della palude. Tirò le redini e il cavallino ubbidì. A passo tastava con lo zoccolo il terreno per assaggiarne la solidità, ma in quel modo avanzavano tanto lentamente che alla fine Atreyu decise di scendere e di procedere a piedi, tirando Artax per la briglia. Un paio di volte il cavallino scivolò e parve affondare, ma ogni volta riusciva a rimettersi in piedi. Ma quanto più si addentravano nelle paludi della tristezza, tanto più lenti e grevi si facevano i suoi movimenti. Lasciava penzolare la testa e si trascinava avanti solo stancamente. «Artax!» esclamò Atreyu. «Che ti succede?» «Non lo so, padrone», rispose l'animale. «Penso che dovremmo tornare indietro. Non ha senso andare avanti. Stiamo inseguendo qualcosa che hai soltanto sognato. Ma non troveremo niente. E forse è anche già troppo tardi. Forse l'infanta imperatrice è già morta e tutto quello che facciamo non ha più alcun senso. Torniamo indietro, padrone. Dammi retta. Torniamo indietro». «Artax, così non avevi mai parlato prima», fece Atreyu stupito. «Che cos'hai? Ti senti male?» «Forse», replicò Artax. «Ad ogni passo che facciamo, la tristezza cresce nel mio cuore. Non ho più alcuna speranza, padrone, e mi sento così pesante, credo proprio di non farcela più». «Ma dobbiamo andare avanti», esclamò Atreyu. «Su, Artax, andiamo». Tirò le redini, ma Artax restò fermo. Era già affondato nella palude fino alla pancia e ormai non faceva più alcuno sforzo per risollevarsi. «Artax», gridò Atreyu, «non devi lasciarti andare proprio adesso. Su, vieni, tirati fuori, altrimenti affogherai». «Lasciami, padrone», rispose il cavallino. «Non ce la faccio più. Vai avanti da solo. Non preoccuparti per me. Non posso più sopportare questa tristezza. Voglio morire». Atreyu tirava le redini disperato, ma il cavallino affondava sempre più. Quando alla fine solo la testa del povero animale riusciva ancora a emergere dalle acque nere, Atreyu lo prese fra le braccia. «Ti tengo forte, Artax», gli sussurrò. «Non ti lascio affondare». Il cavallino emise ancora un debole nitrito. «Non puoi più aiutarmi, padrone. Per me è finita. Nessuno di noi due sapeva che cosa ci aspettava da queste parti. Adesso sappiamo perché le paludi della tristezza hanno questo nome. È la tristezza che mi rende così pesante e ora devo affondare. Non c'è più scampo». «Ma anch'io sono qui», ribatté Atreyu, «eppure non sento nulla». «Ma tu porti lo splendore, padrone», rispose Artax. «Tu sei protetto». «Allora voglio mettertelo al collo», esclamò Atreyu. «Forse aiuta anche te». E fece il gesto di sfilarsi la catena. «No», nitrì il cavallino, «questo non lo puoi fare, padrone. Il pentakel è stato dato a te. Non ti è permesso di trasferirlo ad altri a tuo piacimento. Devi continuare a cercare senza di me». Atreyu premette il volto contro la guancia del cavallo. «Artax», sussurrò con voce soffocata. «Oh, mio Artax! Vuoi farmi un ultimo favore, padrone?» domandò l'animale. Atreyu annuì senza parlare. «Allora ti prego di proseguire per la tua strada. Non voglio che tu stia a vedere quando per me arriva la fine. Me lo vuoi fare questo favore?» Atreyu si rialzò lentamente. La testa del cavallino era già quasi per metà nell'acqua nera. «Addio, Atreyu, padrone mio», disse ancora. «E grazie». Atreyu strinse le labbra, incapace di dire una sola parola. Fece ancora un cenno di saluto ad Artax, poi si volse e si allontanò. Bastiano singhiozzava. Non riusciva a trattenere il pianto. Aveva gli occhi pieni di lacrime, tanto che non riusciva più neppure a leggere. Dovette prendere di tasca il fazzoletto e soffiarsi il naso prima di poter proseguire. Atreyu non seppe mai per quanto tempo aveva continuato a diguazzare, avanti, sempre avanti, come sordo e cieco. La nebbia si faceva sempre più fitta e Atreyu aveva l'impressione di vagare da ore, sempre girando intorno. Non badava più neppure a dove posava il piede e tuttavia non affondava mai oltre il ginocchio. In una maniera che gli restava del tutto incomprensibile, il segno inviatogli dall'infanta imperatrice lo guidava sulla giusta via. D'un tratto, Del tutto all'improvviso si trovò davanti il dorso di una montagna, un pendio piuttosto ripido. Si arrampicò su per le rocce, tutte solche e fenditure, fino a raggiungere una cima tondeggiante. Da principio non si avvide della natura di quella roccia. Soltanto quando fu in alto e si volse a guardare la montagna che aveva scalato, si accorse che le enormi lastre, che aveva creduto di pietra e nelle cui fenditure il muschio cresceva molto fitto, erano di corno. Dunque aveva trovato la montagna di corno. La scoperta non gli diede però alcuna soddisfazione. La fine del suo fedele cavallino lo aveva tanto rattristato da fargli accettare la cosa quasi con indifferenza. Ed ora doveva ancora cercare di scoprire dove abitava la vecchissima morla, che qui aveva la sua dimora. Mentre rifletteva sul da farsi, sentì d'un tratto una leggera scossa, come un fremito che percorreva tutta la montagna. Poi avvertì un soffio violento e un forte rumore, come uno schiocciare di labbra, e infine una voce che pareva venire dalle viscere più profonde della terra. «Guarda un po', vecchia!» C'è qualcosa che si arrampica su di noi. Atreio si affrettò verso l'estremità della cupola che formava la cima del monte, da dove aveva udito venire la voce. Così facendo, sdrucciolò su un cuscino di muschio e cominciò a scivolare. Fece per frenare la caduta, attaccandosi a qualche cosa, ma non ci riuscì. Scivolava giù sempre più rapidamente e alla fine sentì che precipitava. Fortunatamente andò a cadere su uno degli alberi che stavano di sotto, i cui rami lo accolsero e trattennero. Davanti a sé, Atreio vide ora un'enorme caverna che si apriva nella montagna e da dentro veniva una gran pesticciare d'acqua. Laggiù c'era qualcosa che si muoveva ed ora veniva lentamente fuori. Aveva l'aspetto di una roccia grande come una casa. Soltanto quando fu tutta visibile, Atreio si accorse che era una testa, posata sul lungo collo tutto a pieghe, la testa di una tartaruga. Gli occhi erano grossi come neri stagni, dalla bocca scendeva una bava di limo e di alghe. L'intera montagna di corno, Atreio lo capì in un lampo, era un unico, mostruoso animale, un'enorme tartaruga d'acqua, la vecchissima morla. Poi udì di nuovo quella voce che gorgogliava e sbuffava. «Piccolo, che cosa fai qui?» Atreio afferrò l'amuleto che portava sul petto e lo tenne alto perché l'occhio grande come uno stagno lo potesse vedere. «Conosci questo, Morla?» Ci volle un bel po' prima che lei rispondesse. «Guarda un po', vecchia, Aurin. Da quanto tempo non l'avevamo più vista, l'insegna dell'infante imperatrice?» Da tanto, tanto tempo. L'infante imperatrice è malata, spiegò Atreio. Lo sapevi? A noi non importa, vero vecchia? Replicò la morla, che pareva avere la singolare abitudine di parlare con se stessa, forse perché era priva di interlocutori da chissà quanto tempo. Se non facciamo qualcosa per salvarla, morirà, aggiunse Atreio in tono pressante. E va bene, fece la morla, ma con lei finirà anche Fantasia. Esclamò Atreio. La distruzione ne sta già dilagando ovunque. L'ho vista con i miei occhi. La morla lo fissò con il suo immenso occhio vuoto. Noi non abbiamo proprio nulla in contrario, vero vecchia? Gorgogliò. Ma allora sarà la fine per tutti noi, gridò Atreio. Per tutti. Sta a sentire, piccolo, rispose la morla. E che cosa credi che ce ne importi? Per noi niente più è importante. È tutto lo stesso, assolutamente lo stesso. Ma anche tu sarai distrutta, Morla, gridò Atreio infuriato. Anche tu, oppure credi, perché sei così vecchia, di poter sopravvivere a Fantasia? Sta a sentire, gorgogliò la Morla. Noi siamo vecchi, piccolo, troppo vecchi. Abbiamo vissuto abbastanza, abbiamo visto anche troppo. Per chi sa tante cose come ne sappiamo noi, non c'è più nulla di importante. Tutto si ripete in eterno, il giorno e la notte, l'estate e l'inverno. Il mondo è vuoto e senza senso, tutto gira soltanto in tondo. Ciò che comincia deve finire, ciò che prende vita deve poi morire. Tutto si compensa, il bene e il male, il bello e il brutto, la stupidità e la saggezza. Tutto è vuoto, niente reale, niente importante. Atreio non sapeva che cosa rispondere. Quel gigantesco, mostruoso sguardo vuoto e buio della vecchissima Morla paralizzava tutti i suoi pensieri. Dopo un po' sentì che lei riprendeva a parlare. «Tu sei ancora giovane, piccolo. Noi siamo vecchi. Se tu fossi vecchio come noi, sapresti che non c'è altro che la tristezza. Guarda un po'. Perché non dovremmo morire? Tu, noi, l'infante imperatrice, tutti, tutti quanti. Tutto è solo apparenza, solo un gioco nel nulla. Tutto è indifferente. Lasciaci in pace, piccolo. Vai via». Atreio dovette chiamare a raccolta tutta la sua volontà per opporsi alla paralisi che gli veniva da quello sguardo vuoto. «Se tu sai tante cose», disse, «allora saprai anche qual è la malattia dell'infante imperatrice e saprai anche che c'è un rimedio». «Lo sappiamo, vero vecchia, lo sappiamo», sbuffò la Morla, «ma non è importanza se si salva o no. Perché lo dovremmo dire?» «Se ti è davvero tanto indifferente», insisté Atreio, «allora potresti anche dirlo. Tanto per te fa lo stesso». «Potremmo anche farlo, sicuro, vecchia, non è vero?» grugnì la Morla. «Ma non ne abbiamo voglia». «In tal caso», esclamò Atreio, «vuol dire che non ti è poi tanto indifferente. Allora vuol dire che tu stessa non credi a quello che dici». Ci fu un lungo silenzio. Poi si udì un cupo brontolio fra il rutto e il gargarismo. Doveva certo essere una maniera di ridere, posto che la vecchia Morla sapesse ancora che cosa fosse il riso. In ogni modo disse: «Sei furbo, piccolino. Guarda un po', sei proprio furbo. Era un pezzo che non ci divertivamo più così, vero vecchia? Ma guarda un po'. Già, in realtà potremmo davvero anche dirlo. Non fa nessuna differenza. Glielo dobbiamo dire, vecchia?» Di nuovo ci fu un lungo silenzio. Atreio aspettava ansioso la risposta della Morla e non voleva interrompere con nuove domande il corso già così lento e sconsolato dei pensieri. Finalmente lei riprese a parlare. «Tu hai la vita breve, piccolo. Noi abbiamo la vita lunga, troppo lunga, ma viviamo nel tempo. Tu per poco, noi per molto. L'infanta imperatrice no. Lei c'era già prima di noi, ma non è vecchia. Lei è sempre giovane. Già, guarda un po'. Lei non vive nel tempo, ma nei nomi. Ogni tanto ha bisogno di un nome nuovo, sicuro. Ha sempre bisogno di nomi nuovi. Sai il suo nome, piccolo?» «No», ammise Atreio, «non l'ho mai sentito». «E neppure potresti averlo sentito», rispose la Morla. «Neppure noi ce ne ricordiamo». «E sì che di nomi lei ne ha avuti tanti, ma sono stati tutti dimenticati. È tutto passato, finito per sempre. Guarda un po'. Ma senza nome lei non può vivere. Ha soltanto bisogno di un nome nuovo, l'infante imperatrice, e subito tornerà a stare bene. Ma non è così importante che torni a star bene». Richiuse gli occhi grandi come stagni e cominciò lentamente a rientrare la testa. «Aspetta!» gridò Atreio. «Da dove prende i nomi nuovi? Chi le può dare un nome nuovo? Dove posso trovare un nome?» «Nessuno di noi», udì il gorgoglio della Morla, «nessuna creatura di fantasia può darle un nome nuovo. Perciò è del tutto inutile. Non farti in un cruccio, piccolo. Non è tanto importante». «Ma chi allora?» gridò Atreio fuori di sé. «Chi allora può darle un nome e salvare tutti noi?» «Non fare tanto baccano», fece la Morla. «Lasciaci in pace e vai via. Neanche noi sappiamo chi può farlo». «Se tu non lo sai», insisté lui, gridando sempre più forte, «chi altri lo può sapere?» Lei aprì ancora una volta grandi occhi. «Se tu non portassi addosso lo splendore», sbuffò, «ti divoreremmo. Così potremo finalmente restare in pace. Guarda un po'. Ma chi?» continuò a insistere Atreio. «Dimmi chi lo sa e ti lascio in pace per tutta l'eternità». «Ma che importa? Tanto fa lo stesso», rispose. «Forse Uyulala dell'oracolo meridionale, quella forse lo sa, ma che cosa ce ne importa? E come arrivo fino a lei?» «Non ci puoi arrivare in nessun caso, piccolo. Guarda un po', non in 10.000 giorni di viaggio. La tua vita è troppo breve per questo. Moriresti prima. È troppo lontano, nel sud, troppo, troppo lontano. Per questo è tutto inutile. Te lo abbiamo detto fin dal principio. Non è vero, vecchia? Lascia perdere, piccolo, rinuncia e soprattutto lasciaci in pace. E con ciò chiuse definitivamente gli occhi pieni di vuoto e ritirò la testa dentro la sua caverna. Atreyu capì che da lei non sarebbe venuto a sapere nulla di più. In quella stessa ora la creatura d'ombra, che si era formata con l'oscurità nella brughiera notturna, trovò le tracce di Atreyu e si mise in cammino, diretta alle paludi della tristezza. Nulla e nessuno in fantasia avrebbe potuto distoglierla da quella traccia. Bastiano si teneva la testa stretta fra le mani, lo sguardo fisso davanti a sé. «Strano», disse ad alta voce, «strano che non ci sia una sola creatura in tutto il regno di fantasia in grado di dare un nome nuovo all'infante imperatrice. Se si fosse trattato solo di quello, di inventare un nome, Bastiano avrebbe potuto certo dare una mano. In quelle cose lui era bravissimo, ma purtroppo lui non era in fantasia, dove le sue qualità avrebbero potuto essere utili e magari procurargli qualche simpatia e onore. D'altro canto, però, era anche contento di non essere laggiù, perché mai e per nessuna ragione al mondo avrebbe voluto arrischiarsi in un luogo come quello delle paludi della tristezza. E poi quella sinistra creatura d'ombra che inseguiva Treio senza che lui lo sapesse. Bastiano lo avrebbe volentieri avvertito, ma non era possibile. Non restava altro che sperare e andare avanti a leggere.